Europa 24. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchesi, questa Europa 24 in apertura. Le preoccupazioni europee dopo l'esito del referendum sull'indipendenza della Catalogna. Un pieno successo, una lezione di democrazia, esulta così il presidente della Generalitat di Catalogna, Artur Mas, per il quale la giornata di ieri è solo l'inizio e il prossimo capitolo sarà un referendum definitivo. Un successo il fatto che a mettersi in fila siano stati 2 milioni di catalani, sfidando il divieto della Corte Costituzionale che ha definito la consultazione illegale. Un successo che di questi 2 milioni l'80,7% abbia votato per l'indipendenza della Catalogna, mentre per Madrid si tratta solo di un esercizio antidemocratico e inutile. A onor del vero, a mobilitarsi sono stati quasi esclusivamente gli indipendentisti. I votanti sono stati circa un terzo degli aventi diritto, mentre secondo i sondaggi un catalano su due vorrebbe continuare a far parte della Spagna. La regione infatti rappresenta circa un quinto dell'economia spagnola, ma detiene anche uno dei debiti pubblici più alti, e una Catalogna indipendente significherebbe anche una Catalogna fuori dall'Europa. I primi a non volerlo sono proprio gli industriali catalani, perché l'economia della regione è basata sull'export di prodotti e servizi soprattutto nel vecchio continente. Non solo, se la Catalogna diventasse indipendente sarebbe fuori dai trattati istitutivi dell'Unione Europea, dunque dovrebbe ripartire da zero, e se volesse poi rientrare nell'eurozona sarebbe costretta a rispettare non solo i criteri di Maastricht ma nuovi vincoli di bilancio, e con un debito pubblico così alto sarebbe costretta sicuramente a forti tagli sociali. Ma per ora tutte queste sono solo supposizioni, si dovrà vedere alla prova dei fatti con un vero referendum definitivo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Andiamo a Berlino per la grande festa che ha celebrato con un grande spettacolo popolare la fine del muro che divise la città per 28 anni. Volano uno dopo l'altro e nel cielo esplode la gioia di Berlino. Vengono liberati uno dopo l'altro gli 8.000 palloncini voluti per ridisegnare il percorso dell'antica frontiera, e anche quest'ultimo muro di aria e luce alla fine si sgretola come quello che per 28 anni ha spaccato il cuore della città. E ad accompagnare la fine di questa barriera luminosa ci sono gli stessi protagonisti della Wende dell'89, a cominciare da Gorbaciov e Walesa. Dalla Porta di Brandeburgo e la Nona Sinfonia di Beethoven a diffondere la gioia di Berlino, inno di quell'Europa unita nata anche dalle macerie del muro, perché i sogni possono diventare realtà, ricorda Angela Merkel in questa giornata di gioia ma pure di responsabilità, avverte la cancelliera dopo aver lasciato nell'intercapedine del muro rose in omaggio delle 138 vittime della libertà. E la giornata cominciata a Bernauer Strasse, dove la prima persona fu uccisa mentre cercava di valicare il confine, non poteva che finire col concerto di Barenboim, ma pure di Peter Gabriel e Udo Lindenberg sotto quella quadriga, simbolo della Germania riunificata. E oggi, come 25 anni fa, la gioia esplode nel cielo sopra Berlino. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Berlino. Moody's prevede che la crescita europea si fermi allo 0,7% nel 2014, accelerando così lievemente all'1,3% nel 2015 e nel 2016. Lo si legge in una nota dell'agenzia di rating, secondo cui questa crescita globale non avrà accelerazione significativa a causa del rallentamento della Cina, degli impedimenti strutturali nell'eurozona, delle difficoltà di Brasile e Sudafrica. È tutto per Europa 24 di quest'oggi 10 novembre 2014. In studio vi ha parlato Daniele Biacchesi. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.